Ondivago, un programma ideato e condotto da Max Ponte, alla parte tecnica Alessandro Gianotti. Ondivago.com. Rondini. Ondivago vi lascia in compagnia delle rondini. Le rondini emigrate nel Parco del Valentino, a Torino. La radio cede la parola ai piccoli volatili. Ma che verso fa la rondine? Wikipedia dice che la rondine garrisce, zinzilula o cinguetta. Cosa si staranno raccontando le rondini di prima mattina? A voi la traduzione dall'idioma passeriforme. Ad Ondivago le rondini del Parco del Valentino a Torino. Ondivago.com. Ondivago vi ha lasciato alcuni minuti in compagnia delle rondini e del loro zinzilulare, del loro ondivago rondineggiare, della loro dialettica così vivace che ha già superato in audience tutti i programmi televisivi di prima mattina. Scaricate questa registrazione e lasciate che accompagni il vostro risveglio. Abbiamo allungato i microfoni molto in alto per voi. Ondivago.com